Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, la nostra rubrica, la nostra rassegna stampa dei settimanali, dei mensili italiani e stranieri. Voglio proprio cominciare da una testata straniera questa mattina. Non so cosa voi pensiate del cinema in tre dimensioni, del 3D, naturalmente da Avatar, dal film Avatar ha avuto uno sviluppo impressionante, siamo anche arrivati alla diffusione di eventi sportivi in tre dimensioni, naturalmente poi visibili con l'ausilio degli speciali occhialini. Beh, in realtà Newsweek ha preso una posizione decisamente controcorrente, perché ha chiesto a Roger Ebert è il critico cinematografico del Chicago Sun Times, di dire cosa pensa del 3D. Ne è uscito un articolo molto molto pesante, che dice: perché io odio il 3D e voi dovreste fare lo stesso. Si è proprio, come dire, messo a fare un elenco molto puntuale di tutti i motivi per cui l'utilizzo delle tre dimensioni al cinema non è convincente, non è utile, non sarebbe neanche un bene per la salute. Anche da noi in effetti ci sono state un po' di polemiche sull'esperienza appunto della visione tridimensionale e dei possibili effetti indotti dal 3D. Beh, questo articolo appunto di Roger Ebert, vi leggo alcuni dei motivi per i quali lui odia il 3D e ci invita, come vi dicevo, a fare lo stesso. Dice: innanzitutto in realtà noi ci stiamo buttiamo via una dimensione, perché normalmente quando vediamo un film in due dimensioni il nostro occhio è abituato a percepire la profondità della profondità di campo, che viene poi magari anche rinforzata dalle tecniche di ripresa, e quindi non c'è tutta questa necessità di avere una tangibilità, una terza dimensione per i film che guardiamo. Il che gli fa anche dire che il 3D non aggiunge niente alla nostra esperienza visiva. Questa è una delle affermazioni che lui lascia, come dire, meno dimostrate di tutte. Secondo lui non serve, appunto. Può essere addirittura una distrazione. Qui cominciamo ad andare decisamente contro l'utilizzo del 3D, perché dice ci sono alcuni meccanismi di terza dimensione che consistono soltanto nel separare i piani visivi, e quindi a questo punto tolgono anche un po' il gusto di vedere il film per puntare magari più all'effetto tecnico. Può creare nausea e mal di testa, dicevamo prima. Anche lui naturalmente ricorda, anche Roger Ebert ricorda questo tipo di caso. Newsweek tra l'altro ha proprio dedicato la copertina a questo articolo, quindi evidentemente avevano intenzione di sollevare un po' un dibattito. Tra gli altri motivi, non ve li leggo tutti, ne ha messi in fila 9, tutti vagamente motivati, alcuni più, altri meno. Tra gli altri motivi ricorda che i cinema hanno cominciato negli Stati Uniti ad applicare un sovrapprezzo per la visione dei film in tre dimensioni. Questo indubbiamente non fa felice Ebert, come non farebbe felice nessuno di noi, anche perché spesso il film rimane sostanzialmente lo stesso. E poi dice: io non posso immaginare un film molto drammatico come può essere The Hurt Locker, l'ultimo film, vi ricorderete, che ha vinto l'Oscar, della Bigelow, è dedicato proprio a questo artificio impiegato nella guerra in Iraq, e dice: non posso davvero immaginare un film del genere con questo tipo di intensità emotiva girato in tre dimensioni, mi sembrerebbe davvero uno spreco. E poi l'ultimo motivo che lui considera un po' quello conclusivo, che dovrebbe disvelarci anche una sorta di tentativo delle major, delle case cinematografiche, dice: tutte le volte che Hollywood si è sentita minacciata, si è sentita in pericolo, si è buttata sulla tecnologia. Una volta è stato appunto aggiungere il sonoro, una volta il colore, una volta allargare lo schermo, un'altra volta il cosiddetto cinerama, e poi adesso poi ancora le tre dimensioni, che in realtà appunto avevano fatto la loro comparsa già diversi decenni fa, il suono stereofonico e adesso di nuovo la terza dimensione. Quindi ci sarebbe una sorta di così scorrettezza da parte dei produttori cinematografici, che contrabbandano per grandissima novità una tecnica che in realtà è già abbastanza abbastanza vecchia e che viene utilizzata solo per rivitalizzare, in qualche modo per riportare interesse sui film e sulla cinematografia. Comunque un articolo decisamente contrario al 3D, non so quale sia la vostra personale opinione, certo quella di Ebert non lascia molto spazio al dibattito. E allora, visto che parliamo di cinema, televisione, 3D, una cosa che ho trovato su Sorrisi e Canzoni TV, José Mourinho è la star televisiva del momento, nel senso che è il re del campo e degli ascolti, ci avvisano da Sorrisi e Canzoni TV, perché dice che nella partita che ha portato l'Inter alla finalissima di Champions League, anche davanti alle telecamere, José Mourinho, scrivono su Sorrisi e Canzoni, ha colpito ancora. A sostenere la sua Inter nell'impresa contro il Barcellona c'erano 10 milioni 35 mila spettatori, fa il 34,58% di share, quindi praticamente 1 su 3, ma questo dato, che è riferito solo a Rai 1, va poi sommato con quello di Sky, dove c'erano altri 2 milioni 220 mila spettatori, e con quello di Mediaset Premium, dove c'erano altri 739 mila spettatori, totale di spettatori 13 milioni, che hanno seguito appunto la utile sconfitta dell'Inter a Barcellona. 13 milioni di spettatori fanno di questa partita il programma più visto dell'anno, anche se si scorpora il solo dato Rai, soltanto Sanremo ha ottenuto di più. Insomma, scrivono su Sorrisi e Canzoni, oltre ai meriti sportivi a José Mourinho vanno riconosciuti quelli televisivi. Il tecnico portoghese garantisce spettacolo non solo in campo, ma anche nelle conferenze stampa, nel pre e nel post partita, come sanno appunto tutti gli appassionati di calcio che seguono e di solito si dividono in simpatizzanti o antipatizzanti per José Mourinho. Spesso conta molto il fatto che siano interisti o meno. E allora, dalla vicenda di José Mourinho a un'altra vicenda di un mestiere molto particolare, vicenda assolutamente particolare che ho visto su Panorama questa settimana. Io, il pilota senza patente, pilota di aerei si intende. L'articolo è di Carmelo Abbate e racconta appunto di questo paradosso con le ali, come lo definisce. Per 13 anni un signore che si chiama Thomas Salme ha pilotato ogni tipo di aereo passeggeri senza avere il brevetto, però il 2 marzo lo hanno scoperto e ha raccontato la vera storia del suo volo, che è iniziato per passione ed è finito però, ohimè, in cella. La storia appunto è quella di, scrive Carmelo Abbate, un bambino cresciuto in una famiglia di immigrati alle porte di Stoccolma. Un bambino che a 9 anni fotografa gli aerei in decollo dall'aeroporto vicino a casa. Poi naturalmente questo bambino cresce, la sua vita prende una strada imprevista, frequenta sì una scuola per piloti e ottiene il brevetto per aerei da turismo. Spiega Thomas Salme: io volevo continuare e ottenere l'abilitazione per i voli civili, però costava troppo, da 80 a 100.000 euro. Non avendo lui questa cifra, era una cifra irraggiungibile per uno che all'epoca si arrangiava, riferisce sempre Abbate, componendo musica per tastiere, lavoricchiando in un blockbuster. Eppure la passione è più forte. Salme conosce un uomo che fa il tecnico nel centro di addestramento piloti della SAS, compagnia appunto aerea svedese. Una notte lo porta con sé, Thomas si chiude dentro un simulatore di volo, non sa neppure da dove si comincia, ma ci sono i manuali. Così va avanti per un anno e mezzo, di giorno studia le fotocopie dei manuali, la notte simula di volare. All'inizio del 97 ha pensato bene di fabbricarsi una falsa licenza di volo, dove ha scritto che aveva lavorato per 2 compagnie svedesi, ha inviato questo falso brevetto e dopo 2 settimane una compagnia aerea vera e propria lo ha chiamato. Lo ha naturalmente messo alla prova, test al simulatore, verifiche e tutto quanto. Mi hanno fatto provare, dice lui, per 4 ore in condizioni proibitive, forte vento, perturbazioni, volare con un solo motore, ed è stato regolarmente assunto perché appunto era molto bravo. E un mese dopo ha firmato il contratto, insomma in questo modo è andato avanti per 13 anni. Ha pensato anche di prendere una licenza vera, ma spiega: purtroppo non potevo, perché per fare una licenza vera io avrei dovuto autodenunciarmi a quel punto non potevo più tornare indietro. Tra l'altro, nella sua carriera è riuscito anche una volta a fare un atterraggio con un motore solo, perché un'aquila era finita dentro una turbina. Insomma, non ha mai avuto particolari problemi, anzi risultava sempre tra i migliori nei test di controllo delle compagnie aeree. Peccato che non avesse mai ottenuto un brevetto. Questa è la storia incredibile di un pilota di aerei senza patente. Una piccola segnalazione ancora da Panorama. Molti di voi, immagino tutti, conoscano il Monopoli, gioco popolarissimo. Festeggia 75 anni, ci avvisa Panorama, e rinnova il tabellone, perché al posto delle vie storiche metteranno i nomi delle città italiane che fanno scegliere dal popolo di internet. Dice un gioco, tra l'altro, che ha venduto finora circa 275 milioni di scatole. Tutti gli italiani, spiega Panorama, sono chiamati al voto per decretare quali città del bel paese occuperanno un posto d'onore sul tabellone dell'edizione del Monopoli Italia. Si va sul sito www.monopolitalia.it, Monopoli è scritto con la Y, e si sceglie in una rosa di 100 città. Ci sono non solo i grandi capoluoghi di provincia o le città d'arte, ma anche i piccoli centri, gli aeroporti, le isole. Le 22 più votate potranno tenere il loro gonfalone, quindi sostituire vicolo corto, vicolo stretto o parco della Vittoria. Vedremo poi quale sarà l'esito di questo particolare referendum. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Volevo parlarvi di un argomento che sta un po' ritornando sempre nelle pagine dei settimanali. Si tratta dell'energia nucleare. Come sapete, è stato deciso un ritorno all'energia nucleare, un piano di riattivazione appunto dell'energia nucleare nel nostro paese, ma qua e là appunto cominciano a prendere corpo una serie di obiezioni e di opposizioni. Ce lo ricorda ad esempio Famiglia Cristiana questa settimana, in un articolo di Fulvio Scaglione, ci avverte già dal titolo: attenzione, l'Italia nucleare esiste solo a Roma. In che senso? Nel senso che, si spiega già nel sommario, la gente ha ancora paura delle centrali e i politici si adeguano. Spiega Scaglione: sono lontani gli incubi di Chernobyl, il referendum 3 nel 1987 con cui l'Italia decise di abbandonare il nucleare, ma la gente però non sembra ancora convinta. Un recente sondaggio di Eurobarometro, dedicato proprio agli europei e alla sicurezza nucleare, mostra che solo il 28% degli italiani vorrebbe una centrale in Italia. Così i politici, spiega Scaglione, appena tornano nei collegi elettorali, mollano l'atomo, anche quelli della maggioranza. In più non è ancora nata l'Agenzia per la Sicurezza Nucleare, che dovrebbe decidere i siti delle nuove centrali. Quindi c'è una decisa resistenza che non sarà da sottovalutare appunto nel portare avanti questo programma di ritorno al nucleare. E di questo stesso tema poi si è occupato anche Nando Pagnoncelli per un sondaggio che è invece comparso su Vanity Fair di questa settimana. Il titolo già spiega molto: nucleare? No, grazie ancora. Un italiano su due, dice Pagnoncelli, è contro, il 63% non vuole una centrale vicino a casa. Insomma, cambia poco dal referendum del 1987. Tra l'altro c'è una maggiore fiducia, perché Pagnoncelli ha chiesto a un campione di lettori e lettrici chi dovrebbe gestire la decisione di attivare le centrali nucleari. Per il 59% degli intervistati la decisione finale sul dove costruire le nuove centrali andrebbe lasciata alle regioni. Al governo centrale pensa di lasciarla al governo centrale soltanto il 27% degli intervistati. Ma se ci fosse un nuovo referendum sul nucleare, è stato chiesto, lei oggi come voterebbe? Contro il nucleare è la risposta del 47% degli intervistati, che conferma anche quello che riferiva poi Famiglia Cristiana. Per il nucleare sarebbe il 26%. C'è una quota tutt'altro che trascurabile di persone che si definiscono indecise, pari al 23%. Indecise, diversa appunto da coloro che rispondono non so cosa voterei, ma proprio sarei indeciso, il 23%. E infine qui gli indecisi diminuiscono decisamente. Se le dicessero che una delle nuove centrali dovrà essere costruita a 50 km da casa sua, lei sarebbe contrario per il 63% delle risposte, favorevole, ci sarebbero incentivi, ci sarebbero opportunità di lavoro, il 18%, indifferente è una decisione a cui non potrei oppormi per il 12%. Insomma, c'è ancora una forte resistenza appunto per questo tipo di energia che si pensa appunto di riattivare, che si è cominciato a riattivare con tutta una serie di passaggi molto complessi, ma che al momento continua a suscitare molte diffidenze. Cambiamo veramente discorso, passiamo a una cosa molto leggera che ho trovato sempre su Vanity Fair, per quello ve la segnalo. Non vorrei aggiungere delle particolari manie alle signore e alle signorine che possono essere in ascolto, ma c'è un signore che ha detto che la prima cosa praticamente che guarda in una donna sono gli alluci. Ora, in realtà questo signore fa una scelta professionale, come dire, perché spiega che nello scegliere Bianca Balti come volto della campagna del suo nuovo profumo, il signore in questione Cesare Paciotti ha scelto appunto Bianca Balti perché ha un alluce perfetto. Quindi gli alluci come metro di bellezza, come valutazione della bellezza di una donna. Lui dice testualmente che cosa, rispondendo alla domanda ma cosa l'affascina di Bianca Balti, di questa modella: i piedi sono magnifici. Devo dire, per chi non avesse presente il volto della modella, posso assicurare molto modestamente che mi pare il resto della modella non abbia nulla da invidiare, però lui evidentemente aveva una necessità precisa. Dice: lei ha un 38 perfetto, spesso invece le modelle che superano il 1,75 m di altezza hanno piedi troppo grandi con brutti alluci, e Bianca invece dita affusolate con una proporzione ideale. Bianca Balti, che naturalmente e non sorprendentemente visto quello che vi ho detto, poi deve spesso posare appunto mettendo in evidenza questo dettaglio che ha così affascinato il designer, il promotore di questa campagna. E allora, dagli alluci passiamo alla persona completa, perché ho visto su Wired di questo mese un articolo molto divertente di Matteo Bordone che segnala questa nuova moda che coniuga, diciamo così, la nostra mania per il peso, per le diete, eccetera, con la dimensione pubblica data dai social network, da internet, insomma, da tutte queste tecnologie che ci portano un pochino a vivere sempre in pubblico. Di cosa si tratta? Si tratta di questo. Lui dice: mi peso in società. La letteratura americana, spiega lui, comincia con un romanzo che racconta di una donna bollata con una A rossa cucita sul vestito, la lettera scarlatta, parliamo chiaramente la lettera scarlatta, per via di una sua passione considerata non ortodossa dalla comunità. Siccome sono convinto che le civiltà della vergogna siano meglio delle civiltà della colpa, io, scrive Bordone, ho messo in casa mia la bilancia Weavings. Allora, che cos'è questa bilancia? È una normalissima bilancia, dice lui, è elegante, nera, lucida, senza tasti, capace di pesare chi ci sale sopra e ricavare con buona approssimazione anche l'indice di massa corporea. Fin qui tutto normale, infatti è una normalissima bilancia, magari un po' evoluta. Il bello viene dopo, perché questi dati, dopo un'impostazione semplice, vengono spediti wifi, cioè senza fili, a un sito, il sito della stessa bilancia, e lì si apre un mondo. Per prima cosa, tramite una pagina personale, si può controllare l'andamento di peso e di massa corporea sia proprio sia di tutta la famiglia. C'è un grafico che si aggiorna, che incide sui pixel del monitor ogni digiuno, ogni pizza, ogni cenone, e il tutto si può poi sincronizzare con Google e altri programmi, e ci sono poi anche dei programmi per monitorare la crescita dei figli, anche se, dice lui, la prospettiva di una schedatura addirittura familiare mi fa venire un po' voglia di essere punk. Si può anche andare oltre, spiega sempre Bordone, si può dire che a ogni mia pesata mattutina la bilancia prenda i dati, aggiorni la mia pagina personale e poi spedisca su un social network, ad esempio su Twitter, un messaggio che dica così a tutti quanto peso, quanto devo ancora perdere rispetto a un obiettivo che mi sono fissato, e un link dove tutti possono contemplare la curva dei miei progressi. Quindi dopo Twitter poi si può mettere anche su Facebook, insomma, fare pubblica diffusione dei propri dati sul peso. E dice: sì, ma funziona all'inizio, scrive Bordone, pesarsi in mezzo alla gente sembra controproducente. vincente. E infatti una foto lo ritrae appunto mentre si pesa esattamente nel mezzo della Galleria Vittorio Emanuele a Milano. In realtà il bello viene quando uno si abitua all'idea, perché deve essere come rivelare in famiglia di avere una particolare predilezione, un particolare difetto. A un certo punto il peso del giudizio altrui scompare, scatta l'orgoglio della verità e si immagina che i risultati possano cominciare ad avere senso. Tu guarda, ha perso 2 chili, ma guarda un po', ce l'ha fatta. E quindi insomma la dimensione pubblica aiuterebbe anche a mantenere il peso. Questa è la conclusione di questa particolare corrispondenza di Matteo Bordone su Wired di questo mese. E con questa ultima diavoleria tecnologica, proprio il caso di dirlo, si conclude la nostra puntata di oggi. Io vi do appuntamento a sabato prossimo alle 8:30 per una nuova puntata di Magazine 24. Ringrazio Fabio Cantadori, anche questa mattina in regia. Vittoria Mussini e Margherita Aina mi hanno invece aiutato a preparare questo programma. Vi ricordo, come sempre, il programma potete riascoltarlo sul nostro sito www.radio24.it. Noi ci sentiamo sabato prossimo, sempre alle 8:30. Buona domenica.